PizzaCast, podcast per passione. Episodio 33, Anniversary. Il mondo è veramente piatto se visto da due occhi, soli. Buonasera. Buongiorno. Oh, ce l'ho fatta a mettere tutto. Ho acceso tutto. Ciao a tutti. Evviva, la terza partenza. Siamo tornati. Che meraviglia. Ciao, amore mio. Ciao. Facciamo un brindisi. Ma questa è acqua. Fa niente, dopo mettiamo il vino. Brindisi con l'acqua. Buon anniversario, cari. Buon anniversario, cari ascoltatori pizzari. Sì, l'anniversario è nostro, però. Appunto, buon anniversario dei pizza agli ascoltatori del PizzaCast che si stanno gustando con noi il nostro anniversario. Non tutto l'anniversario, però magari. Insomma, a un certo punto vi mando via. Allora, in realtà il nostro anniversario non è oggi. Tanto non sanno che giorno è. Vabbè, ma possiamo anche dire. Oggi è sabato 3 settembre, sono le 17:48. Ecco. E noi siamo in libera uscita. Ta-tan! Ta-tan! La piccolina è con i nonni, poverina, full immerso in questa settimana, oltre a i giorni feriali, anche quelli festivi, però niente, altrimenti non si sarebbe potuto realizzare più di quel tanto, cioè forse il PizzaCast al limite poteva anche venire tra 8.000 pause e 45 urletti di Nicole, ma tutto il resto che non saprete non sarebbe stato possibile, quindi pazienza. Vabbè, ora non entriamo in particolari scabrosi, insomma, lasciamo un po' di privato nel PizzaCast. Non mica ho raccontato niente. Comunque abbiamo deciso appunto di festeggiare in questo modo, diciamo, originale, insomma, facendo una cosa originale. Sì, perché insomma, facendo una cosa a cui noi teniamo molto, il PizzaCast, che non facevamo da un po' di tempo. Diciamo che alla fine abbiamo mischiato le due passioni, una che è relativa non fare sempre questo così, una relativa chiaramente al rapporto di coppia e una relativa a un interesse che è quello del podcasting. Guarda il microfono per perché sennò non ti si sente. Allora, l'ultimo episodio del PizzaCast, quello regolare, perché poi c'è stato un PizzaCast al taglio nel mezzo, però l'ultimo episodio regolare del PizzaCast, il 32, risale addirittura, udite udite, al 13 febbraio 2011. Buon San Valentino! anche lì vedi? Noi ci sentiamo solo per le festività, ragazzi, quindi state tranquilli che fine a Natale non si torna. Nostre o comuni, insomma, sì. Comunque sempre festività d'amore. D'amore, love generation. E io infatti, io vi dico già che questo episodio, il titolo di questo episodio non era anniversary per me, ma era Kiss. Ecco. E poi capirete perché. Non c'entrano nulla quei simpatici ragazzoni nerboruti, Simmons con la lingua lunga e tutti dipinti. Ok. Sì, allora, 13 febbraio 2011, amore mio, significa che sono passati esattamente 6 mesi e 21 giorni. Oh, molto utile questa notizia. 28... Immagino che vi stiate veramente, non so, prendendo appunti in qualsiasi dispositivo digitale, non 28 settimane e 6 giorni. Questa è ancora più utile di quella di prima. 202 giorni, ecco, così fa impressione. Non so, vogliamo dire anche i secondi? E 145 weekdays. Che non sai tradurlo. Sono e quindi i giorni... weekdays. Sì, giorni della settimana. Ok. Okay. Chi se ne frega giorni dell'anno. Ok, bene, abbiamo finito questa cosa. 0,55 no. Anni. Ma attenzione, il mitico Wolfram Alpha, che è il motore di ricerca che ci dà questi simpatici dati, ci dice che eventi importanti che sono successi dal 13 febbraio 2011 ad oggi, aprile, 29 aprile, matrimonio del principe William e di Kate Middleton. Ecco, vedi, rimaniamo in tema, vedi? Matrimonio, sempre di matrimonio si parla, anche il nostro uguale proprio, voglio dire, no? Sì, insomma, diciamo, noi abbiamo scelto di essere un po' più terra terra, sì, ma insomma comunque, insomma, poi anche perché sennò troppi paparazzi, insomma troppe cose, stava male. Sì, comunque siamo tornati, speriamo di poter mantenere una costanza, ma non facciamo più promesse perché ci siamo resi conto riascoltando i nostri vecchi episodi che abbiamo promesso una caterva di robe. E quindi sì, per esempio perdere. In questo momento lo dico, perché tanto nessuno se ne sarebbe accorto, ma io lo dico, in questo momento noi dovevamo dire cos'era successo di importante, sì, dal 13 febbraio ad oggi, sì, e noi abbiamo, fidandoci di Wolfram Alpha, abbiamo detto che si è sposato il principe William. Quindi una minchia, cioè voglio dire, una notizia sicuramente di sti cazzi. Però comunque per fare ancora, per far capire, no, lo, diciamo il clima in cui stiamo registrando, mm-hmm, appunto abbiamo lasciato la piccolina dai nonni, fa un caldo boia, sono 40 gradi, 3 settembre, il caldo grosso pensavamo fosse alle spalle, invece si sta veramente morendo dal caldo in questo momento, quindi noi stiamo registrando nudi, no, non è vero? Oddio, chi lo sa, non lo saprete, non lo sappiamo, oddio, era un video, vero, no, registro, magari materiale per YouPorn, insomma, no, dai. Vabbè, che tristezza. Ok, allora si fa una canzoncina, io direi che... di mandare un po' di music. Ci abbiamo della bella musica oggi. Allora, non ci abbiamo il roccaccio, quello come garba a me, insomma, un po' che psichedelico, come dici quei chitarrine, gli organetti, le cose un po' psichedeliche, un po' progressive. Anzi, scusate, volevo fare una parentesi. Siccome non riesco a trovare, apro. Poi chiuda, poi, però. Non lo so. Una parentesi, appunto, musicale. Non riesco a trovare su Jamendo o altri siti così simili. Della buona musica soul, se qualcuno cortesemente me ne potesse consigliare, gli sarei infinitamente grata. Chiusa parentesi. Io spero che la base non sia alta, non sono più abituato. Vabbè, ma voi mi scuserete. Andiamo con la canzone, che però c'hai tutto te là, quindi non mi ricordo bene che cos'è. Se intanto me la dici, io la preparo. Allora, la canzone si chiama Leg. Ed è quella di Matthew Tias, che è stato promosso. Noi abbiamo battezzato il Briao, Briao di turno. Il Briao al pianoforte, perché c'ha sta voce un po' da Briao, appunto. È stato promosso, ragazzi, perché lui è, amore mio, ti ricordi, l'avevamo utilizzato per le basi, sì, dell'episodio 25 del Pizzacast, che si chiamava Sciacalli, era diviso in due. Non mi ricordo in quale, in tutte e due probabilmente, tutte e due, sì, le episodi abbiamo usato, sì, abbiamo usato tutte e due le parti, abbiamo usato quella base. E quindi è stato promosso, perché dalla base è passato a brano, primo brano, quindi voglio dire, no, d'impatto, sì, sì, sì, sì, prima vetrina. Da sopra brano c'è solo la sigla, il pezzo, il livello superiore è la sigla. Questo, ma lì ci sono gli Insula, i nostri amici Insula Dulcamara, sono che intoccabili, sono assolutamente. Intoccabili. Quindi vi lasciamo al brano Leg di Matthew Tias, e magari anche a una buona bottiglia di vino, che ci auguriamo vi faccia compagnia, perché a noi ci farà compagnia un Müller Turgot. Saluti. Ciao. Just get rid of my got a lack and it's so bad, I feel a failure. Oh, it's the kind of lack you get when you're surrounded by strangers. Not that any of them would want anything from you. It's so sad, there's just there, and that's actually something quite new. I've got this lack and it's so bad, I've got hair up my ass, I've got nothing but grey grass, nothing but lag and last, nothing but this lack. Nothing but the slack. As a human race, we come together for birth. We come together for death. What brings us together in between is up to us. Stop and listen to the universal language of music and bring the positive energy with you everywhere you go. Mark Johnson, direttore del progetto Playing for Change. Eccoci rientrati dopo che siamo riusciti, dopo qualche peripezia, ad aprire la bottiglia di Müller Turgo, che qualcuno, siccome è pisigno, voleva aprirla in diretta. E qualcun'altra che invece non è pisigna ha voluto aprirla subito, evitandogli una figura di menta perché la bottiglia non si apriva. Esatto, quindi adesso quindi possiamo dire veramente col Müller Turgo salute, buon anniversario amore. Accetto. Scusate. Scusate, ci facciamo i cazzi nostri a un certo punto. Questo ottimo Müller Turgo. Dannata. 2009, sì, vabbè, della fattoria Lagaria. Sì, è una bottiglina piccola, questa qui, una bottiglina sì, da 37,5, insomma. Da. Vuol dire anche quanto l'hai pagata? Non so. 2 euro. Ecco. E 79. All'Esse Lunga, va bene. All'Esse Lunga, che io non frequento mai perché vado alla Coop. Ecco. Alla Coop Rossa. Ecco. Compagni. Bene. Detto questo, insomma, forse è il caso. Ah, prima volevo dire una cosa, insomma, volevo ringraziare tutti i numerosi fan del Pizzacast che hanno commentato sia su Twitter che su Google Plus, anche forse sulla pagina del Pizzacast, ma adesso non ricordo. No, sulla pagina del Pizzacast ce l'abbiamo messo dopo. Ok, quindi niente, comunque che hanno commentato appunto numerosi la storiella del cercare di convincere Marco Pisigno a registrare quest'oggi, perché per lui non è mai il momento giusto, non è mai la quadratura del cerchio, il gomito fa contatto col piede, l'autolavaggio e quant'altro. Quindi, però il discorso è questo: la signorina qui presente voleva far registrare me sul terrazzo con 45 gradi la sera a luna, invece ora siamo chiusi dentro con 45 gradi, insomma. Poco opportuno, invece però festeggiamo, insomma, ora adesso il Pizza Cast finisce, noi festeggiamo. Ok, va bene. No, quindi insomma aveva chiesto aiuto, ma io non è che non volessi registrare, solo che insomma volevo un attimino preparare la musica, e quindi però nel giro di una settimana, come ti avevo promesso, vedi, siamo qui sul pezzo, pronti sul pezzo a registrare una puntata piena di argomenti, piena di cose interessanti. Playing for Change, cioè, Playing for Change, anche chiudere qua praticamente. Dai, zitto. Playing for Change è un progetto multimediale, probabilmente molti di voi lo conoscono già, di cui è produttore la persona che abbiamo nominato prima, quindi Mark Johnson, e uomo anche, con il nome Mark, sì, Johnson. Mark Johnson, e c'è di mezzo anche Bono degli U2, ha partecipato anche Manu Chao, insomma così, ed è contemporaneamente anche una fondazione che è nata apposta per supportare questo progetto progetto atta a recuperare fondi per edificare scuole di musica prevalentemente nei luoghi del terzo mondo, dedicate logicamente all'infanzia. Il progetto multimediale è fatto di una raccolta praticamente di musicisti in vari posti del mondo, negli Stati Uniti, Spagna, Sudafrica, India, Nepal, Medio Oriente, Irlanda e anche in Italia, udite udite. Una raccolta appunto di musicisti di strada. A proposito dell'Italia, voglio dire una cosa dopo. Legati quindi da questa fortissima passione per la musica e per lanciare il messaggio che attraverso appunto l'energia della musica si possa essere in pace e quindi anche diffondere il concetto di pace. Poi contemporaneamente attraverso questa iniziativa logicamente si raccolgono fondi per realizzare i progetti della fondazione. Allora questo progetto appunto arriva al suo apice con questo CD di cover cantate appunto da diversi artisti di strada. CD, DVD, sì. E c'è anche un DVD, appunto io volevo arrivare a questo. Ecco. Il DVD molto bello, dove si vede appunto questo l'uomo con il nome Mike Johnson, Mark Johnson, che va in giro col suo computerino e nei vari posti del mondo registra il live. Tizio che suona i bonghi, il tizio che suona la chitarra, il tizio che canta, il tizio che suona l'armonica, eccetera eccetera, e poi mette tutto insieme tutti il canto, sullo stesso brano, tutti sullo stesso brano chiaramente, quindi è partito dalla base chitarra e voce e poi andando giù ha aggiunto pezzi chiaramente il tizio col violoncello in Russia, mi sembra, in Polonia, non so dov'è, che suona il primo pezzo Stand By Me, chiaramente ha già una base musicale ben corposa fatta di tutti i pezzi precedenti. Sì, è partito dalla California, da Santa Monica, la prima esibizione, e su questa esibizione che hanno registrato poi si sono calibrati per poter registrare tutti gli altri artisti che hanno partecipato dei paesi di cui vi ho parlato prima. E volevo dire questo, che nel DVD ci sono anche due italiani, un sassofonista mi sembra di Pisa e un chitarrista di Livorno. Allora no, un chitarrista la chitarra resofonica si chiama Roberto Luti, che è di Livorno e lo trovate in Stand By Me, e anche in un assolo peraltro, anche Stefano Tomaselli, che è di Pisa ed è un sassofonista, anche lui lo trovate in Stand By Me in un assolo nel CD. Nel DVD vedete anche proprio il passaggio, il momento della registrazione, ma anche una breve intervista in particolare del sassofonista Stefano Tomaselli, che tutti parlano un inglese fluente, lui l'unico che dice come si dice? Sì, in spagnolo, perché lui parla in spagnolo, quindi parla in spagnolo fluente. Molto bravi. Direi che anche il DVD è molto molto... È molto bello, molto toccante. Interessante, molto toccante, molto... diciamo anche diverso da tutte le iniziative di questo genere, perché è una trasmissione di gioia e di emozione continua, a differenza di altri progetti magari curati da Onlus piuttosto che comunque fondazioni o comunque volti a una tematica di beneficenza, di sostegno di persone in difficoltà, che in linea di massima hanno sempre questo questa amarezza, questa tristezza di fondo, che magari io credo, magari è un pensiero mio, però che oggi in parte abbia assuefatto le persone, in parte le faccia bypassare magari perché è un pungolo e quindi come tutti i pungoli si tende ad evitarli. Beh, chiaramente comunque siamo comunque bersagliati anche di esperienze di questo genere, di diciamo richieste di aiuti umanitari di questo genere. E tra poco insomma ci aggiungeremo anche noi a questa cosa. Tutti i video, sì, infatti tutti i video di Playing for Change comunque sono disponibili su YouTube, infatti sono partiti da YouTube e hanno raggiunto 30 milioni di contatti, quindi insomma direi che il progetto. Cioè, sto parlando, scusatemi, solo del Stand By Me, quindi del primo video lanciato, mm-hmm. del primo brano. Quindi insomma direi che è un impatto notevole. Comunque, per chi non li conoscesse ancora, al momento in cui li vedrete ve ne innamorerete, perché insomma, sì, veramente bello. Vi raccontiamo un episodio pizzaro di questo. Allora, noi Bea in realtà, io non conoscevo questo progetto. Bea in realtà lo conosceva già, però forse ne avevamo parlato in passato, ma ce ne eravamo tra virgolette dimenticati. Se vi ricordate il discorso legato a Web Smarties eccetera, nelle varie indagini, ricerche eccetera eccetera che ho fatto per lavoro per realizzare quella rubrica, ero incappata anche in questo progetto, ecco perché insomma ne ero venuta a conoscenza e me ne ero abbastanza innamorata. Poi però era rimasto, vero? Era rimasto lì, non ne avevamo più parlato. e il caso ha voluto che sono venuti ad abitare qui sotto a noi, al piano di sotto, due simpaticissimi, splendidi, fantastici ragazzi, che probabilmente se urliamo in questo momento ci possono anche sentire dal balcone. Sì, perché insomma questi appartamenti moderni lo sappiamo, no? Christoph e Giusy, il franco crucco e la pugliese, che insomma sono dei ragazzi molto simpatici, abbiamo avuto l'onore di frequentarli, insomma, siamo onorati di questo, e ci hanno parlato di questo progetto. Appunto, loro possiedono il CD, possedevano perché è un mese che risiede a casa nostra, che è da noi, e piace tanto a Nicole. Esatto, Nicole si è innamorata di questo perché una sera loro sono venuti a cena da noi e hanno portato questo CD. Abbiamo messo il disco e soprattutto in la canzone di Tracy Chapman che passeremo dopo, Talking About Revolution, che è diventata, rinominata da Nicole, la canzone di Tata Giusy. La canzone di Tata Giusy. Perché? Perché l'abbiamo ballata quella sera e lei l'ha ballata insieme a Tata Giusy. Sì, facendo diventata... lei le coreografie, perché Nicole le fa lei le coreografie. Non stiamo facendo altro che ascoltare questo pezzo. Sì, anche in macchina, dovunque, dobbiamo portarcelo dietro. Quindi, è anche per questo che non l'abbiamo ancora restituito, ma comunque è anche molto bello da ascoltare. Già la canzone originale è da pelle d'oca e questa cover è veramente ben fatta. Veramente ben fatta. Ci sono nel CD 10 brani, tra cui appunto Talking About Revolution, piuttosto che Stand By Me, eccetera. E nel DVD invece ci sono 7 tracce, di cui 5 sono video delle canzoni che appunto sono rappresentate, che sono riportate nel CD, mentre un'altra è un video che si chiama The Playing for Change Foundation, dove si possono vedere tutte le attività della fondazione, e un altro invece è un piccolo documentario di 3 minuti con praticamente che si chiama Peace Through Music, che riporta delle scene insomma del viaggio attraverso i vari paesi e delle piccole interviste degli artisti dal 2008, quindi da quando è partito il progetto fino al 2010. Attualmente nel sito playingforchange.com potete acquistare il CD DVD, che costa pochissimo, costa $14, quindi insomma, cosa che insomma, faremo anche noi, sì, anche perché quello di Giusy le va restituito brevissimo. oppure altro merchandising, quindi magliette eccetera eccetera. Ovviamente qualsiasi acquisto va a sostegno del progetto. Potete anche effettuare semplicemente donazioni o donazioni in memoria di qualcuno, e anche questa cosa mi sembra anche comacabra. No, in memoria può essere anche qualcuno vivo, insomma, okay. Ma, come dire, al riconoscimento. Tanto prima o poi. L'ho detto male, che sia. Va bene, ok, allegria. Comunque, quindi nel sito playingforchange.com avete tutte le informazioni commerciali, anche il blog, l'aggiornamento di quello che, insomma, sono le notizie della band, del tour, eccetera. Mentre invece in placeforchange.org avete tutte le informazioni della fondazione. Infatti, vedete subito nella parte alta è riportata la diciamo cosa è stato raggiunto, gli obiettivi, no? Quindi quello che è stato fatto fino ad ora, che sono stati quindi realizzati 7 programmi di istruzione musicale per 600 studenti e creati 130 posti di lavoro. Gli obiettivi invece del 2011 sono 10 programmi per 750 studenti e creare 150 posti di lavoro. E quindi niente, facciamo l'in bocca al lupo a queste persone. Ci sono logicamente sempre sul sito anche i video che riportano i ragazzi che suonano, eccetera. Quindi potete veramente verificare tutto quello che viene detto, insomma, a livello testuale, anche come report di immagini. In bocca al lupo al progetto, che non ha certo bisogno del nostro in bocca al lupo, perché insomma, dati i nomi anche altisonanti che ci sono dietro, non sicuramente avrà ulteriore fortuna rispetto a quella che ha avuto adesso. Storia ben diversa è quella del Siamo come le fragole, e qui la gente farà no, di nuovo Siamo come le fragole. Siamo come le fragole è un'iniziativa di beneficenza anch'essa, che ha girato a mo' di tormentone sulle bacheche Facebook, insomma non si riusciva a capire bene cosa cappero fosse questo Siamo come le fragole. Ma tra poco lo capiremo meglio, perché ce lo direi. Ora una canzoncina si mette, però una canzoncina. Adesso mettiamo il Talking About Revolution. Sì, Talking About Revolution, appunto tratto da Playing for Change. Il brano originale, quindi ripetiamo, che è di Tracy Chapman, che io adoro. Insomma, qui siamo proprio al limite della... della pirateria, ma sì, comunque, insomma, vabbè, diciamo che è per uno scopo di beneficenza, pertanto ci auguriamo che speriamo, insomma, che ascoltare questo pezzo vi invogli ad acquistare il CD appunto di Playing for Change. Quindi noi Talking About the Revolution degli Afrofiesta da Playing for Change. Oh, ezali po na bana ya Playing for Change, Mokil Mobimba, More Fire. Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Whatever, standing in the way for light, crying at those steps or those on leaves of starvation, wasting time in the unplumbing lines, sitting around, waiting for a promotion. Monsters. Poor people gonna rise up and take their shares. Run, run, run, run. about revolution, oh, talking about revolution, oh, talking about revolution, oh, talking about revolution, oh, talking about revolution, oh. Yeah, man. Allora, ti è piaciuta questa cover? Talking about revolution. Vi è piaciuta, cari amici ascoltatori del Pizzacast? A me tantissimo. Sarà che era già un mio brano proprio del cuore, no? Come gli amichetti del cuore, danno del cuore. E quindi niente, questa versione me lo ha fatto apprezzare ancora di più poi quando ho visto il DVD ancora dell'altro. Quindi insomma. Quindi brava Tresi e bravi agli Afro Fiesta che hanno suonato questa. Sì, perché questa è una delle poche che credo sia suonata proprio da un gruppo. Cioè sì. non è diciamo composta in più parti, insomma, da più musicisti. Mentre ecco. Invece Stand By Me è un collage di varie esibizioni. Allora, parlavamo, amore mio, del Mia Dolce Tre Quarti. Ecco. Del siamo come le fragole, sì. Abbiamo visto le bacheche di mezzo a Facebook, ma anche forse di tre quarti appunto di Facebook in base dal messaggio siamo come le fragole. Sì, adesso poi potete continuare a scrivere siamo come le fragole, anzi tutto attaccato lo dovete fare anche su Twitter, hash siamo come le fragole. Esatto. Però potete condividere anche il link www.siamocomelefragole.it. Ok, di che si tratta? Sentiamo. O anche, udite udite, lo spot che è uscito fresco fresco ieri, oh, di produzione. Questa è una bombetta che merita un goccino di Müller Turgo per, sì, festeggiare. Ecco. Che trovate, il video che lo trovate, logicamente sulla fanpage Flash Mob Lucca, oppure sul canale Flash Mob Lucca di YouTube, oppure a breve anche sul sito stesso. E su tutti i canali, basta cercare siamo come le fragole su Google, poi salta fuori l'universo mondo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, come accennavo prima, di una iniziativa di beneficenza, anche questa, che si colloca in Burkina Faso, in particolare nel villaggio di Tuguri, dove ci sono, insomma, è una regione in realtà di cui uno dei villaggi si chiama proprio Tuguri, ma comunque ce ne sono diversi, sono 74.000 abitanti e la metà, pensate, la metà, quindi famiglie, bambini, anziani, qualsiasi cosa, sono senza acqua. Ma non vuol dire che sono senza acqua, tanto per dire, sono proprio senza acqua per bere, senza acqua per vivere, senza acqua per mangiare, senza acqua per coltivare, senza acqua per lavorare, praticamente senza acqua per fare qualsiasi cosa. Quindi cosa succede? Pubblicizzando il Siamo come le fragole, che è agganciato alla fondazione, all'associazione, scusatemi, Onlus Amanignaio, di cui potete verificare le credenziali su amanignaio.it, comunque trovate tutti i riferimenti sul sito siamocomelefragole.it. Amanignaio quindi ha delle missioni in Burkina Faso e collabora con l'amministrazione comunale del posto. E attraverso questa collaborazione sarà possibile, qualora riuscissimo a racimolare 10.000 euro entro la fine dell'anno, sarà possibile realizzare un pozzo d'acqua potabile, o forse anche più di uno, ce lo auguriamo, vediamo un po', dipende da come andranno le cose, affinché queste persone possano non soltanto abbeverarsi, ma quindi anche poi abbeverarsi correttamente, quindi evitare di bere delle pozzanghere, perché quando si è senza acqua si beve anche la terra secca, logicamente, no? Quindi evitare di ammalarsi di malaria e altre malattie che purtroppo per i bambini sotto i 2 anni portano alla mortalità, ma anche poter coltivare i campi e quindi magari anche sostentarsi in qualche maniera, quindi anche mangiare, quindi anche lavorare, eccetera eccetera eccetera, oltre a creare posti di lavoro per la costruzione stessa del pozzo, perché non è che dall'Italia partiamo e andiamo noi a fare le cose, ma vengono stanziati soldi affinché questa amministrazione comunale possa dare alle persone del posto la strumentazione corretta e quindi lo stipendio per poter realizzare il pozzo stesso. Quindi cosa dobbiamo fare, ragazzi? È semplice, cioè veramente io so benissimo che sto parlando con delle persone fantastiche, soprattutto sotto questo punto di vista, perché il web dà delle risposte veramente molto attive su queste tematiche. Sono certa che non ci saranno problemi in tal senso, sono già arrivate diverse donazioni dalle poche azioni social che abbiamo fatto, perché ok, la campagna è partita il 29 d'aprile, ma sappiamo tutti che d'estate c'è il calo fisiologico, quindi siamo stati anche abbastanza fermi, quindi abbiamo lanciato adesso lo spot. Ci sarà un flash mob, poteva mai mancare che ci occupassimo ormai di flash siamo mob ormai insomma, sappiamo che la gente qui se no si offende se non lo facciamo, quindi ci sarà un flash vabbè, mob vabbè, ma noi ci divertiamo, certamente ci sarà un flash mob quindi durante Lucca Comics, non vi dico ancora quando, ma insomma a breve c'è anche il tutorial, quindi lo saprete. Merchandising ci ne abbiamo e ve ne daremo volentieri, spillette, cappellini, magliettine, qualsiasi cosa, zaini, shopper, perché ce li abbiamo? Perché un'azienda ha dato come donazione la possibilità di realizzare gadget, perché sappiamo tutti che ad oggi il gadget insomma comunque invoglia un pochettino, e poi mi sembra anche giusto dare un riconoscimento a chi insomma dona qualcosina in questi tempi molto difficili, è giusto anche ringraziarlo, no? In qualche maniera, cerchiamo di farlo in tutte le salse, con degli attestati, stiamo studiando gli attestati e per questo ringrazio gli amici di Digitalia che mi hanno dato questo spunto. Cercheremo quindi poi di fare tantissime cose, quindi tantissima carne al fuoco, ma cosa possiamo fare tutti? Semplice, un post sul nostro blog che parli dell'iniziativa, magari ripubblicate il video oppure giocatevi il testo, quello che vi pare. Pubblicare il banner, lo potete scaricare da www.siamocomelefragole.it/partecipare è facile, comunque se non usate lo slash lo trovate su siamocomelefragole.it. Potete semplicemente diffondere, condividere sui social network l'iniziativa, quindi sulla fanpage Flash Mob Lucca oppure direttamente sul sito utilizzando il Google Plus piuttosto che Facebook piuttosto che Twitter. Questo, il tam tam, è una delle cose fondamentali, quindi anche se non ci avete una lira per far cantare un cieco oppure non vi va semplicemente di fare una donazione in soldoni, vi ringraziamo sin da ora per la vostra condivisione, quindi poi, grazie. Mi raccomando, ricordatevi appunto del flash mob, perché anche la vostra eventuale presenza al flash mob o comunque la sponsorizzazione del flash mob, studiatevi la coreografia e venite a ballare quando sarà il momento, che magari ci divertiamo, ci troviamo, mi fate sapere e chi magari siete. Ci conosciamo anche, ci conosciamo di persona, ci facciamo un altro brindisi cercando di portare questa allegria e questo brindisi davvero fisicamente anche a queste persone che veramente ne hanno bisogno. Ci sono dei bambini bellissimi, sorridenti, non hanno nulla ragazzi, eppure hanno dei sorrisi che ti riempiono la vita, quindi mi raccomando, vi ringrazio e niente, siamocomelefragole.it attende il vostro cuoricino. Io posso dire una cosa, è bellissimo il sito di Siamo Come Le Fragole, guardatevelo perché è spettacolare, è un sito che cambia in base alle nostre... In base a voi, in base alle vostre donazioni. In base a noi, in base a noi. Sì, noi l'abbiamo già dato. Sì, noi l'abbiamo dato, ma insomma comunque, vabbè, è bellissimo, cambia. Cambia, sì, si evolverà, quindi dateci una mano anche a far evolvere questo. Rendiamo più verde e più florido questo paesaggio. Diamoci da fare, quindi niente, adesso cambiamo radicalmente argomento per raccontarvi così molto, così en passant, qualora ve ne fregasse qualcosa. Cos'è successo a casa pizza? Durante le ferie? Ai pizzari durante le ferie. Hanno preso. Alcuni di voi lo sanno, l'abbiamo scritto sui social network. Sono andati in ferie. E... Ma quando sono andati in ferie i pizzari? Quando? Nell'unica settimana, nelle uniche due settimane in cui ha fatto fresco. In primis. Brutto quindi, tempo. Brutto no, tempo, un freddo della tempo. Madonna. Il vento allucinante, l'acqua era ghiaccio, quindi fate conto che siamo andati via da Lucca con i 40 gradi, ok? Siamo arrivati all'isola d'Elba, che quindi non è che abbiamo cambiato nazione, che c'era i pinguini, sembrava di essere al Polo Nord. Quindi già questo, insomma, un pochetto, come si dice, a Lucca ti spava, no? Poi abbiamo incontrato questo bellissimo tempo che sembrava il cielo d'Irlanda, arrivavano queste nuvole nere, e per fortuna però poi andavano via, poi ritornavano però, ecco, non ci abbandonavano mai e quindi non sapevi mai cosa cappero fare delle tue giornate, soprattutto con una bambina piccola. In più, quando siamo andati in ferie? Cioè proprio nel vero senso, quando ci siamo andati noi? Quando? A luglio. Non sta capendo una mazza di quello che voglio dire. Ma come si fa con quest'uomo? Ma sarà il vino, non lo so io. Ci siamo andati un giorno dopo. Dovevamo raccontare sta cosa. Buongiorno. Me l'ero scordato. Questo è partito dal meteo. Che ne frega la gente del meteo? Me l'ero non scordato. Che te ne frega qualcosa di questa allora, cosa, non so. Allora, voi dovete sapere, chi ci conosce di persona e... ci evita, chi ci conosce non ci uccide. Ok, noi siamo persone sempre in ritardo. Allora, Bea è una cosa incredibile, cioè lei è proprio una ritardataria, proprio... Grazie, per la mia professione farà molto bene per quello che stai dicendo. Per eccellenza. Esatto. Vabbè, libera professionista, giustamente, perché... No, giustamente, non corno, sono ritardataria, appunto. Infatti, per io sono ritardatario, però diciamo che appunto oggi è il nostro anniversario, negli ultimi 6-7 anni mi sono fatto molto trascinare da te, sono diventato ancora più ritardatario. Ok. Quindi se ci date un appuntamento, falzate l'orario di un'oretta, così può darsi che arriviamo. E infatti chi ci conosce lo sa che funziona così con noi. A che ora dobbiamo vedere la persona? La mia dice, migliore ci amica vediamo... ormai al sabato mi invita a casa sua a cena alle 5 del pomeriggio, così è sicura che per le 9 mangia. Esatto, e quindi cosa abbiamo fatto noi? Cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati a prendere il traghetto per andare all'Isola d'Elba. E stranamente, parentesi, siccome le ferie sono andate un po' strane, no? Perché mi devi sempre interrompere? Perché sennò perdi i pezzi per la strada. Partiamo e che succede? Il giorno prima, mentre stavamo preparando le valigie, il mio cellulare muore. Decise così di assentarsi, di venire meno per ben 24 ore. Non partiva più. Sapete che, insomma, più o meno avete capito il lavoro che faccio, quindi ho bisogno assolutamente del cellulare perché ci gestisco le email, i social network, eccetera. Quindi ero nel panico. Va bene, ok, mi porto il portatile, rimediata alla cosa, di notte il cellulare decide di ripartire, quindi parte la carica della batteria. La mattina dopo accendo il cellulare. Forse bastava funziona. Attaccare la presa del caricabatterie. No, non è vero. Tutto funziona, partiamo e andiamo a prendere questo famigerato traghetto. E avendo adesso, essendo noi genitori, abbiamo una bimba piccola, quindi abbiamo deciso: no, guarda, questa volta dobbiamo partire puntuali, mi raccomando, arrivare precisi sul pezzo. Prima, perché non possiamo tenere la bambina in macchina anche con quella condizionata sotto il sole, non va bene. Partiamo con largo anticipo, arriviamo all'imbarco, il traghetto ben un'ora prima. Un'ora e mezza. Un'ora prima. Udite, insomma, eravamo molto felici. Però Bea si era dimenticata di riaccendere il cellulare. Quindi parcheggiamo la macchina, ce la mettiamo già in fila per salire sul traghetto, ci andiamo a prendere un caffè. Torniamo alla macchina, Bea accende il cellulare e arriva un'email del proprietario dell'appartamento dove dovevamo andare. Era nel panico. Che ci dice: che fine avete fatto? Non riesco a contattarvi, cosa è successo? Siamo disperati, dice, siamo molto preoccupati perché non riusciamo assolutamente a rintracciarvi. Qui ci sono anche dei vostri amici che anche loro non riescono a rintracciarvi. Vi aspettavamo per ieri. Panico. A questo punto andiamo a riprendere un attimo, a scartabellare la mitica ricerca di Gmail che ci porta alla prenotazione. Prenotazione e niente, che era effettivamente per il giorno prima, perché avevamo prenotato la struttura e il traghetto in due momenti diversi, a distanza di 3-4 mesi. E boh, chi lo sa, per qualche motivo ci eravamo fissati che dovevamo partire di domenica, quando dovevamo partire di sabato, ma eravamo assolutamente convinti. Mm-hmm. So che non abbiamo scuse. Insomma, morale della favola, come ho detto a tutti, pensavamo di essere in anticipo di un'ora, eravamo in ritardo di 23, ecco, quindi abbiamo superato ogni record mondiale di ritardo. Non solo, ma quando siamo arrivati nel posto dove dovevamo andare, eravamo già la barzelletta dell'intero residence, oltre che dell'intera spiaggia, quindi ci hanno fatto la ola e tutti quelli che passavano, sono loro quelli che sono parte di un giorno dopo. Sì, perché dopo. Lì avevamo degli amici che avevano sparso a quel punto la voce, ecco. E addirittura... Salutiamo e ringraziamo. Ciao Silvano, caro, a buon rendere. Ciao Silvano, ciao Valentina, ciao Riccardo, ciao a tutti gli amici dell'Elba. Sì, diciamo che ci hanno preso per il culo per tutta la vacanza. Addirittura prima di partire, loro erano già partiti, ci mandavano il messaggio: domani ci avete il traghetto, mi raccomando, non vi sbagliate, non vi dimenticate. Ma perché poi abbiamo dovuto spostare la prenotazione del traghetto per il ritorno, altri soldi, giramento di coglioni enorme, coglioni si può dire, ormai l'ho detto. Poi tanto Berlusconi ha detto merda, quindi tu puoi anche dire coglioni. E quindi niente, questo è l'episodio più simpatico delle vacanze. Non è finita qui, quando finita facciamo per ripartire e tornare via dalle ferie, giustamente per recuperare il giorno perso avevamo scelto di partire il sabato sera tardi, in modo da goderci tutto il sabato. Che noi chiaramente avevamo la prenotazione appunto per la domenica, noi abbiamo detto partiamo il sabato sera. Chiaramente trovare un traghetto all'Elba per il sabato sera è stata un'impresa, carissimo, l'abbiamo trovato. Vabbè, l'abbiamo trovata, alla fine ce l'abbiamo fatta. I miei genitori, che erano venuti in ferie con noi soltanto l'ultima settimana, hanno la brillante idea al venerdì pomeriggio, anzi quasi sera, verso le 6 del pomeriggio, che il sabato mattina sarebbero dovuti partire e pertanto noi avremmo avuto un'intera giornata da soli, tutti e tre, per goderci l'ultimo giorno di vacanza. Avevano una loro macchina. Si presenta mio suocero sulla spiaggia venerdì sera verso 5:30, mi fa: Marco, ma così proprio tranquillo, mano in tasca, un po' che cerca, fa: Marco, ho perso le chiavi della macchina. Come hai perso le chiavi della macchina? Sì, ho perso le chiavi della macchina. Sì, ma devono essere lì al tale ristorante. Vedrai, sono lì, perché ero lì che parlavo col tizio, ci giocherò in lavo, le ho perse lì. Va bene, lui va a vedere lì, noi setacciamo tutta la spiaggia, metal detector, bagnini, tutti gli amici a scavare nella sabbia, i bambini, qualsiasi cosa, rastrelli, di tutto. Una cosa, io a ravanare nella sabbia a mani nude per una ventina di minuti mi sono fatto 2 euro. Quindi consigliamo questa pratica. Se volete, acquistatevi un metal detector, potrebbe essere un simpatico investimento per visto che ora va tanto l'oro, comprano l'oro. Qui almeno siamo a Lucca, siamo pieni di volantini che pubblicizzano questo tipo di scambio merci. Magari trovate delle catenine e magari vi fate anche soldi. Detto questo, per farla breve, in sostanza succede che mio padre queste chiavi non le ritrova, signori. E pertanto, che cosa capita? Che dobbiamo lasciare metà bagagli lì, che i miei genitori stanno tutto il sabato con noi. Il sabato è brutto tempo, peraltro, quindi manco ci godiamo l'ultimo giorno di mare. Ci siamo dovuti stringere tutti quanti in macchina, tutti un po' belli, pisati tra le valigie, loro, eccetera, eccetera, per tornare a Lucca. Quei poveri cristi dei miei genitori sono dovuti ritornare all'Isola d'Elba con le chiavi di riserva e prendere, ritornare in qua poi con la macchina, quindi doppia spesa, quindi traghetti, quindi tutto un casino così. Ringraziamo invece il personale della Mobi che gli ha permesso di non dover rifare il biglietto, perché hanno capito la disgrazia che insomma era capitata, pur essendo una cosa piccola. Però devo essere sincero, è stata la Toremar, non è stata la Mobi. Meglio, mi fa più piacere, perché a me le privatizzazioni mi stanno sulle palle. Detto questo, ragazzi, però portuali della Toremar sono simpatici. Mamma mia. Vogliono far montare su quelle rampe nel traghetto a marcia indietro. Te magari c'hai un SUV, non è il caso nostro, però io comunque c'ho Polpetta, sapete, è una Meriva, comunque insomma è una macchina comunque grossa, comunque, cioè abbastanza larga, non è una macchina grossa, è una macchina larga, e loro mi volevano far salire in salita su queste rampe. Impressionante. Grazie amici portuali della Toremar. In ultimo, ovviamente, per farvi capire un attimo ancora di più la psicologia di mio marito, vi dico che è inutile che mi fai taglia, perché sono 3 ore che stai parlando. Basta. Ecco, vi dico dai che c'è il momento geek dopo, dai. Resistete. Intanto mio suocero detto Necros, perché anche lui, come mio marito, lo sono sponsor. Quelli delle buone notizie. Infatti mio marito cosa fa? Giusto perché vede mio padre nel panico, lo prende da parte e gli dice che gli avrebbero rubato la macchina. Signori, questo è tutto dalle vacanze pizzare, un saluto! È stato un piacere, è stato un piacere. Vabbè, facciamo sentire una canzone ora, che se non mi sbaglio, ecco. Scusate, ma purtroppo mi è venuto meno qui l'iPod. Sì, allora, è Dreams fatto anche Come True. Una cosa allucinante. Oh, guarda che bel vernacchio, guarda che bella sinusoide che abbiamo sul grafico di Audacity. Sì. Allora, il pezzo che andiamo a farvi sentire adesso, sempre da Jamendo, si intitola Dreams Come True. Non è assolutamente vero. Si intitola Subscribe the Vibe. Ah, certo, Subscribe the Vibe. L'avevo già detto anche prima. Di Green Stuff Band. Esatto. Ma tanto l'altro ascolteremo dopo. Dall'album Wanna Play With Us. Wanna Play With Us. Wanna Play, sempre, always. Subscribe to the Vibe. Don't zoom like a rocket. Subscribe to the Vibe. Let the good scusa, ragazzi, non c'avevo una professionalità. Rifammelo un po'. Com'era? Come true, impossible not to do, impossible not to do. Du du du du du du du du du du du. Basta. Ok, ok, bella sta canzone, che non mi ricordo come si chiama, però era molto... Subscribe to the Vibe. Ah, quella che faceva Subscribe to the Vibe. Ecco, Subscribe sì, to the siamo vibe. Bruciati tutte le carte per essere dei futuri cantanti. Intanto saluto Omar Serafini, bacissimi, che ci sta supportando su Twitter. Ma sì, ma guarda, ma facciamola sta cosa un attimo, anche se rischiamo di fare del casino qui, perché no? Non so se sapete che noi abbiamo anche un canale Twitter che si chiama Casa Pizza. Si chiama Casa Pizza, che però utilizzo io, diciamo, cioè, non il, è tuo, vero. Il tuo è Binnolli. Il mio personale è Binnolli. Però c'è un hashtag su Twitter che è Pizzacast. Pizzacast, quindi hashtag, quindi il cancelletto sombriato, ragazzi, non ci fate caso. E che ora c'ho da fare anche il serio tra poco, quindi ecco. Cancelletto Pizzacast, questo che c'è su Twitter. Oppure poi, la fanpage del Pizzacast, del che Pizzacast si chiama Pizzacast. Su Facebook, mm-hmm. Poi con nome e cognome. E poi Beatrice Nolle o Marco Pizza su G+, Google+. Oh, like da like. Quello è una Facebook. Devo bipparlo dopo? Ecco, ok, no. Dopo lo bippiamo. Lo bippiamo. Ah, signore. Lo levo. Farò, metterò un grandissimo. No, non importa, non importa. Ok, no, volevo ringraziare appunto chi ci sta. Siccome stiamo spammando clamorosamente sui vari social, il fatto che siamo online in questo momento. Spero, ho fatto casino qui. Tu mi senti? Io pronto, non ci sono? No, dentro la mia cuffia no. Non ci sono, pronto. Sì, ci sono. Sì, ci sei, ci sei. Si mette Audacity, ecco, mi vedo. Eccoti lì, bada, stai urlando. Allora, Claudia Chianetta, Paolo Bianchi, Stefania Vitale, Matt Nowercast, che sono felici che stiamo festeggiando l'anniversario registrando. E poi anche Mapo Marcello Salomone su Google Plus, Nino Nicita, Massimo Fierro e Nexus. Ciao Nexus, Nexus, grande Nexus. Sì. Sio. Sio. Mm-hmm. Mm-hmm. E poi al momento non ne vedo altri, perdonateci, ma il vino qualcuno. Ormai ha anche invaso Beatrice Nolli e Marco Pizza, sono felici che stiamo molto registrando. Marco, non so perché, insomma, sono anche e felici dell'atmosfera. Boh. Marco Pizza mi sembra che è abbastanza ubriaco. Comunque vabbè. Grazie a tutti. Allora, fammi vedere un attimo Audacity, va, così vediamo se ci sono, ok. Allora, a questo punto, finalmente, lo so, cari amici ascoltatori del Pizza, che avete aspettato tantissimo questo momento, finalmente scendo in campo. No, quello era il nostro odiatissimo Presidente del Consiglio. Per amor del cielo. Salgo in cattedra. Ecco. No, questa era Brunetta. Oddio mio. Quindi non va bene. Insomma, prendo possesso del PizzaCast, che diventa una cosa mia, lo possiedo in questo momento. Vabbè, ora così la gente sta spegnendo l'iPod e cancellando per sempre la loro iscrizione. Vabbè, volevo fare un attimino un angolino geek nerd. Tra le altre cose, ricordami che devo salutare due persone dopo. E volevo anche dirvi che Nexus e Matt e Grazia hanno tirato su un podcast per geek nerd, che non ha un titolo al momento, hanno fatto un episodio pilota e mi è piaciuto tantissimo perché è... parla di cose che mi interessano molto, quindi geek nerd alla riscossa. Mancano molti argomenti nel mondo del podcasting, signori, quindi chiunque voglia lanciarsi, che si lanci. Che si lanci nel podcast, il magico mondo del podcast, per passione sempre, ricordate. Allora, chissà, magari Giacobbo potrebbe fare un podcast, certo, indipendente tutto suo, sparando minchiate. Certo, e quindi noi non l'ascolteremo. Giacobbo Cast. Noi non lo ascolteremo, vai, naturalmente. Dunque, volevo parlarvi del mio nuovo amore. Va bene, ciao, è stato un piacere. Questi 6 anni sono stati belli. Facciamo intensi, un brindisi, facciamo un brindisi. Due. Vabbè, facciamo un brindisi. E questo brindisi lo dedichiamo a Darch Linux. Allora, adesso parleremo appunto di una distribuzione Linux che è quella che sto a cui sto passando ultimamente. Perché, come voi sapete, io sono sempre stato un seguace, un utilizzatore della buona vecchia Ubuntu, però ultimamente mi sono deciso a provare nuove strade. Detto così, però, cioè, vabbè, comunque, andiamo avanti. Soprattutto sono stato invogliato da l'amico Matteo Lucchesi, il presidente del Lucca Lug, che seguo su Facebook e su Google Plus. Magari dopo, se ne vuole parlare un attimo di Google Plus, amore, ne parliamo. Sì, volentieri. Che è passato ultimamente anche lui ad Arch Linux e mi ha dato il là per fare questo. Allora, che cos'è Arch Linux? Arch Linux è una distribuzione che è stata creata da tale Judd Vinet. Vorrei chiedere a mio amico Chris, che sta facendo la brace perché sento l'odore. Bravo Chris. Christophe, se Vinet alla francese, dovrei soprattutto capire se lui è francese. Magari se mi vai a vedere sulla Wikipedia posso saperlo. Che devo guardare? Judd Vinet, Vinet. Vabbè, ma chi se ne frega, okay. Andiamo avanti. Nel 2002 questa distribuzione prende, diciamo, si basa all'esistente Crux dell'epoca. E le sue caratteristiche principali sono la semplicità, la leggerezza e la velocità. Questo perché? Perché Arch Linux è una distribuzione minimale e minimalista. Si basa sulla... Cosa vuol dire? Esatto, ti spiego. Ti spiego, si basa sulla filosofia Arch Linux, che ha un acronimo, è conosciuta come KISS. Quando io ieri sera ti dicevo, ecco, appunto, prima vi ho detto che volevo chiamare l'episodio KISS, KISS, bacio, il nostro anniversario, ma KISS rientra anche in Arch Linux. Sì, ma insomma mi sembrava un collegamento leggermente forzato. Perché KISS sta, è l'acronimo di Keep It Simple Stupid, cioè mantienila... questa la conosco molto bene. Mantienila semplice, stupidone. Questo cosa significa? Significa che quando voi prendete la vostra bella ISO di Arch e ve la installate... a fine installazione voi non avete nient'altro che il kernel Linux e i tool minimali, i tool minimi, scusami, che servono per l'avvio del sistema, quindi da riga di comando il minimo indispensabile per far girare il sistema e avviare una shell, una riga di comando, niente di più, niente di più, niente di meno. Beh, allora ti dicevo perché La distribuzione è semplice, moderna e leggera. Allora, innanzitutto bisogna dire che è semplice perché tutte le configurazioni sono fatte mediante file testuali, quindi sono file testuali con righe commentate, quindi non vengono lette dal sistema, che ti spiegano cosa stai modificando con la riga successiva e ti spiegano come modificarla. Quindi non ti devi, se ho capito bene, non devi ricorrere per forza a comandi già preconfezionati, ma capisci proprio cosa, quello a cosa si riferisce, quindi puoi apprendere meglio e riutilizzarlo anche in altri situazioni. Esatto, questo però devo dire ad onore del vero che è una caratteristica un po' di tutte le distribuzioni Linux, è una caratteristica del kernel Linux e delle distribuzioni GNU Linux, quella di avere file di configurazione testuali. È molto leggera perché parti del sistema che si trovano abitualmente in altre distribuzioni non ci sono, sono state eliminate. Per esempio la documentazione è ridotta all'osso, perché nell'era di internet la documentazione la puoi comunque trovare su internet. Se poi però alla prima installazione, come è successo a me, non mi vedeva nella scheda rete wifi, non mi rilevava nella scheda rete wifi, nemmeno quella cablata, cosa assurda che non capita quasi mai, la documentazione servirebbe. Ecco. Però okay, fortunatamente con un altro computer era soltanto un modulo errato caricato in automatico. E va bene. È una distribuzione moderna. Perché? Perché in realtà Arch Linux non ha delle versioni. Non esce la versione... Cioè, escono delle versioni. Però è una cosiddetta rolling release. Cioè, vale a dire, si installa la distribuzione con, in genere, l'immagine netinstall. Cioè... c'è proprio l'essenziale sull'immagine del disco o della chiavetta USB con cui lo installi, poi richiama i pacchetti da internet e quindi è sempre aggiornata all'ultimissima versione. Grande. Questo però è un po' una, diciamo, una cosa positiva ma anche negativa, perché se te vai a scaricare il giorno, vai a installare il giorno in cui è uscito qualche pacchetto bacato, potrebbe essere comunque un problema. Allora, la velocità, va bene, Arch Linux è una distribuzione molto veloce, ma questo perché appunto è scarna, e diciamo che poi un utente è costretto a configurare il sistema e installare software e varie parti del sistema di cui ha necessariamente bisogno. Quindi non è una distribuzione con Ubuntu come Ubuntu che te installi e ha già il suo programma per masterizzare, la sua suite per l'ufficio, il suo programma per visualizzare foto. No, non c'è niente, nemmeno un ambiente grafico. Madonna, non gli sarebbe devi tirartela su da sola. Mazza che palle. Questo, scusate, infatti fa sì che Arch non sia adatta per gli utilizzatori della prima ora di Linux. Ma neanche quelli della seconda. Secondo me è molto educativa per quelli della seconda e dopo ti dirò perché. Dunque, Arch Linux, dicevo, la prima versione dell'11 marzo 2002, la 01, a oggi siamo alla versione 2011-08-19, perché versione? Prima ho detto che è una rolling release e non ha versioni, però di tanto in tanto rilasciano un CD, un'immagine di CD aggiornata per l'installazione, perché se uno è vittima del digital divide non può installare pacchetti perché non ha magari la connessione internet veloce, deve avere la possibilità di installare un sistema vittima completo. Del digital divide, è bellissima. Allora, le due principali architetture supportate sono la x86-64 per i moderni dual core e la i686, appunto una rolling release. Il sito www.archlinux.org, che contiene una wiki della Madonna, veramente si riesce a trovare di tutto lì sopra. L'ultima immagine disponibile per l'installazione, se non si vuole usare la NetInstall, che è quella che ci scarica i pacchetti aggiornati in fase di installazione, è la 2011.08.19. Allora, quali sono le principali caratteristiche di Arch Linux? Poi tra poco la smetto, state tranquilli. Ma soprattutto perché te non mi interagisci, che non mi fai domande. Se io ti dico Pac-Man, che ti viene in mente? Pac-Man, dai, Pac-Man. È un gioino che mi piaceva tanto. Sì, poi c'erano i fantasmini, mi facevano incazzare. Mi ricordo anche molte frustrazioni a tal proposito, perché sono sempre stata negata, quindi... Ok, siccome i programmatori Linux, ma i programmatori in generale, sono dei burloni, hanno chiamato il sistema di gestione di pacchetti di Arch Linux Pac-Man, perché è acronimo, cioè sigla di Package Manager. Quindi Pac-Man è su Arch Linux quello che su Ubuntu è da riga di comando l'apt-get, yum su Red Hat, cioè il gestore dei pacchetti. Sulle moderne Ubuntu si fa con l'Ubuntu Software Center, che sì, l'ho visto. Cos'è un gestore dei pacchetti? È un programma, amore, ti spiego. Cos'è la gestione dei pacchetti? Allora è un gestore... una roba simile sul cellulare, può darsi. Sto battendo il microfono. Sì, il market è un gestore dei pacchetti, ecco. Esattamente, praticamente te dici: io voglio installarmi Skype, lui lo cerca su, ora ho fatto proprio un esempio, LibreOffice, che è uno spin-off di OpenOffice. Lui cerca su questi repository, su questi magazzini di software, questo vale per tutte le distribuzioni Linux, LibreOffice, lo scarica. Se ha bisogno di altri software aggiuntivi particolari, risolve le dipendenze, cioè scarica quello di cui lui necessita. Quindi non devi fare niente. E poi si occupa il package manager di scaricare gli aggiornamenti per tutti i programmi che tu hai installato. Quindi è un po' come succede sul market di Android, esattamente la stessa cosa. I repository sono i core, che contiene pacchetti essenziali al sistema operativo, l'extra, che contiene il software aggiuntivo, testing, vabbè, lo dice il nome, il community è molto interessante perché contiene i pacchetti di un repository cosiddetto comunitario, l'AUR, che è l'Arch User Repository, e poi lì Unstable. Allora, perché l'AUR è molto interessante? Perché all'AUR possono contribuire tutti. Esce il codice sorgente di un software che non è ancora presente nei repository ufficiali. Tu, giovane, nella tua casa puoi decidere di farne un pacchetto e metterlo su AUR, quindi metterlo disponibile a tutti gli altri utenti di Arch. Quindi questa è una cosa molto, molto interessante. E cosa succede? Il pacchetto viene generato tramite un comando che è il make pkg, ma questo non ci interessa, e poi viene gestito da Pac-Man, quindi si occuperà Pac-Man per te di fare gli aggiornamenti di quel software che il tizio a casa sua ha pacchettizzato con AUR. nella community di Arch ci sono degli utenti che sono i trusted user, sono credo una cinquantina, forse anche meno. Trusted user sono utenti affidabili, no? Appunto, come dice il nome. Testano le cose. Esatto. I trusted user svolgono un ruolo particolare perché sono gli unici a poter inviare, leggo, pacchetti precompilati, occupandosi di verificare ogni qualvolta un altro pacchetto viene aggiunto. Quindi sono un po', diciamo, gli amministratori / moderatori di questo AUR. Questa cosa è molto molto simpatica. Quindi, diciamo, anche software che non esiste, ci sarà sempre qualcuno che non è nei repository ufficiali, sicuramente ci sarà qualcuno che l'ha messo in AUR. E se no, lo puoi fare te. Ti scarichi il codice sorgente, lo compili e mandi il pacchetto binario ad AUR. E viva Dio. Bello, viva Dio. Viva Dio. Così. Vabbè. Cos'altro volevo dire prima di metterla? La mia esperienza. La mia esperienza è stata molto positiva, tant'è che su quasi tutte le mie macchine al momento è installata Arch. Ho lasciato il computer fisso di casa con Ubuntu, perché lo utilizzi anche te. Però potresti utilizzare una Arch ben configurata fino a fondo, cioè se io te la preparo, te la lascio configurata a posto, potresti usarla tranquillamente, perché guarda, questo portatile c'è Arch. Sì, ma se una volta mi capita per esempio che non ho un programma tranquillo installato, che faccio? Ho installato anche un front-end grafico per Pac-Man su questo portatile, dove per esempio posso cercare testualmente un software, come una sorta di marketplace, senza dover utilizzare il comando Pac-Man da riga di comando. Ah, ok, allora va bene, allora lo posso anche usare. Comunque, Kiss, non mi chiedere di imparare queste cose, simple, che c'è un stupid. Dicevo, la mia esperienza, a parte questo problema di cui vi ho parlato prima, su un solo portatile in cui non aveva caricato un modulo sbagliato in una scheda di rete, e quindi non ho dovuto, insomma, blacklistare quel modulo, insomma, fare tutta una serie, caricare quello giusto per avere anche solo la rete cablata funzionante. La mia esperienza è molto positiva. Solo un altro problema ho riscontrato: su due macchine non riuscivo a installare Arch, o meglio la installavo ma non funzionava il bootloader, il grab. Questo era dovuto a l'ISO con cui facevo i CD, che era sputtanata, quindi ho dovuto riscaricarla e tutto ha funzionato come per magia. Quindi l'installazione, in realtà, è vero, tante configurazioni da file testuali, c'è un file che è fondamentale, che è lo /etc/rc.conf, e lì in formato testuale ti puoi configurare la rete, quindi indirizzi di rete più o meno assegnati automaticamente, dinamicamente, staticamente, eccetera, nome della macchina, driver e servizi, quindi moduli e demoni da caricare, e link e demoni. I demoni sono quello che su Windows sono i servizi che partono in automatico. Quindi da questo file rc.conf si fa tutto testuale, 30 secondi, si configura tutto, eccetera. Certo, all'inizio è un po' ostica, infatti, perché ti dicevo che era educativa, perché io mi rendo conto, io ho utilizzato Linux prima sul desktop e poi sui server per lavoro. Mi rendo conto che a oggi, per me, sarà che lo faccio per lavoro, non so, però mi risulta spesso più semplice configurare, che ne so, alcuni servizi lato server, quindi da riga di comando su magari delle Debian, piuttosto che installare un ambiente grafico o driver video su una distribuzione Linux. Cioè, per me, a tutti gli effetti, Linux è più facile sui server con riga di comando che non spesso su fissi o portatili per un uso domestico. Quindi l'utilizzare, l'installare Arch, l'utilizzarla è stata per me molto molto educativo, perché capisci ancora di più a fondo aspetti del sistema che io nel mio lavoro non utilizzo, come magari appunto gli ambienti grafici, i driver video, eccetera. A proposito, non ho detto che, non avendo un ambiente desktop predefinito, si può installare KDE, GNOME, XFCE, tutti gli ambienti desktop disponibili per Linux, perché c'è una wiki eccezionale. Voi andate sulla wiki di archlinux.org, mi sembra, l'ho detto prima, comunque sì, .org, andate sulla wiki, potete selezionare anche l'italiano, qualsiasi cosa vi viene in mente trovate una pagina dedicata. Per esempio, io lavoro a un netbook, l'EPC 701, che è uno dei primi netbook ancora con il processore Celeron. Io l'ho cercato sulla wiki e ho trovato tutta l'installazione di Arch e tutta l'ottimizzazione e la configurazione di Arch per quel portatile, sulla wiki, c'è un articolo per qualsiasi cosa ti viene in mente. Te dici, ne voglio configurare Brasero, il programma per masterizzare, come lo installo? C'è una pagina wiki, lì basterà una riga che ti dirà fai Pacman-S Brasero e te lo tiri giù, però troverai una pagina per tutto, quindi fantastica. Spero che qualche ascoltatore del Pizzacast gli darà una possibilità, magari su macchina virtuale. Fatemi sapere se avete bisogno di una mano, se potrò darvela, e se potrò darvela, e insomma mi farà piacere sapere che anche uno solo di voi è passato ad Arch, almeno su una macchina. Ecco l'evangelizzatore linuxiano. Oddio, devo bere, non ce la faccio più, non ne posso più, sono circondata l'angolo del nerd, del geek, finalmente mela dipendenti oppure pinguino dipendenti, non lo so, io veramente non riesco a collocarmi, ecco, diciamo che un giorno diventerò trusted user di Arch Linux. Sì, io manco per sogno, mi destreggio, io rimango un po' così scettica e mi destreggio fra l'una e l'altra cosa, mi godo le tue spiegazioni, ogni tanto me perdo, non capisco niente, però faccio finta di sì, e però insomma poi dopo i frutti in casa si vedono, perché quintuplicano cavi, cavetti, portatili e quant'altro, sperimentazioni e chiacchiere soprattutto, perché ogni sera quando la bambina va a letto sappiatelo che quest'uomo mi fa il resoconto di tutto quello che ha imparato su Linux, cosa della quale a me non me ne può fregare la ceppera. Amore, se però, dici così, ecco, lo sai che ci sarà chi mi dirà, ma c'è altro da fare la sera, ma in effetti, però comunque insomma, qui signora non ti manca nulla a te, io muoio dal sonno normalmente a quell'ora. Anzi, se ci muoviamo a tagliare e chiudere la puntata qui, magari. Mio Dio, le 7:15, no signore, vi saluto, se no se ne va a farsi benedire tutta la mia serata. Sì sì, anche perché ora abbiamo delle cosine buone da mangiare e poi si sa, insomma, io sono già bello briaco, sono qui che sudo e sudo a PT meno che oddio mio, no signori, questo è capace di dirlo anche anche nei momenti più impensabili, non so cosa mi aspetta, aiuto. Un'altra persona che voglio salutare, tre persone voglio salutare, Marco e Adriana Ciomei. Ciao, li Iacoto. Voglio salutare, e anche il grande Iacoto, che erano i nostri vicini di Appartamento al Mare. Fantastici. E stanno qui vicino. Un abbraccio, un bacio, grazie Adriana, perché soprattutto la tua mail ha fatto sì che oggi fossimo qui a registrare. È vero, è vero, ma anche Giuseppe Bruschi, sì, che sul era in crisi d'astinenza da pizza, che l'ha scritto sulla fanpage su Facebook, e si è ascoltato in mountain bike il 32 o il 31, quindi adesso ti ascolterai il 33. Stima per quest'uomo. E cercherò di riportare Bea al microfono e molto presto. E pensate che Adriana era scettica nei confronti del podcasting indipendente, grazie al Pizzacast è entrata in questo favoloso mondo, quindi carissimi colleghi podcaster, non facciamola andar via, non facciamoci scappare questa nuova ascoltatrice, non deludiamola e diamole in pasto sempre cose molto succulente. Basta, è che così si fa sullo scabroso. Ma dai, ma sei te che ora hai la mente sex-oriented. Infatti saluto anche suo marito, il grande Marco, l'elettrochiccaio di Luca. Se andate in Piazza Anfiteatro a Lucca, all'ingresso di Piazza Anfiteatro trovate lui che vende chicchi. Al banchetto fermatevi, perché chicchi buoni come lui non ce l'ha nessuno. Sponsor del Pizzacast, l'elettrochiccaio. Gli dobbiamo proporre. Poi volevo salutare Dottor Blaster. Dottor Blaster lo trovate, c'ha un blog, lo trovate anche su Twitter con Dottor Blaster, vabbè, nome e cognome, vabbè, su Google Plus, ma non lo sto a dire. Dottor Blaster, cercatelo, perché lui è un grande utilizzatore di Arch, fa post tecnici molto interessanti, è simpaticissimo, un ragazzo molto disponibile, mi ha dato qualche consiglio anche per KDE, che non utilizzo, ma lo utilizzo, è una macchina test quella con KDE, non vi preoccupate, non ho lasciato lo gnomo, e lo volevo salutare, grande Dottor Blaster, seguitelo. E io invece volevo salutare i ragazzi di Nowherecast, ma soprattutto ringraziarli per il libro X che sto leggendo, e non hanno suggerito loro. No, chi l'ha suggerito? Carlo Becchi. Allora, non ringrazio quelli di Nowherecast, anzi li prendo a pedate. No, non è vero. Anzi, vi prenderemo... Loro avevano suggerito quell'altro libro, Bill Bryson, piccola breve storia di quasi tutto. Che sto leggendo anche quello, ecco perché ho fatto del casino. No, era comunque salutiamo tutti gli amici podcaster, Julien, Matt Graz, PB che ci ha spronato tantissimo per tornare a registrare. Grazie Paolino, grazie veramente. Il Ruggio, che tanto che diciamo che ci dobbiamo vedere. Alberto CEO, Armida, Nexus Alberto Armida. Insomma, tutti. Se ci siamo dimenticati qualcuno, scusateci. Salutiamo il Nissardo. E questa Carlo è la Becchi, prima delle il tante, Doc. Il Doc con tutta Digitalia. E caro Nissardo, questa è la prima delle rappresaglie che ti colpiranno, perché devi assolutamente tornare. Ci stiamo organizzando, caro Andrea. Preparati, Sappilo. Perché so cazzi tua. Mo anche tu, Carlo Becchi, torna a registrare la svelta tecnica arcana. Quindi, in sostanza, chi devo ringraziare per X? Non me lo ricordo più. Carlo Becchi. Ecco, l'abbiamo nominato soltanto 14 volte. Caro Carlo, tu che sei in... nella patria della bella donna, in Latvia, la patria della potta. Ecco, tanto ormai sono briao. Ti ringrazio tantissimo per questo libro, perché era un po', insomma, di Cory Doctorow. Sì, X, un po' X, un po', come dire, a corto di libri di questo genere, quindi lo sto leggendo volentieri. Bacioni a tutti. Allora, grazie a tutti ragazzi, veramente ci sentiamo presto, l'abbiamo tirata anche troppo lunga. Sì, Nicole vi saluta. Adesso abbiamo ben altro da fare, signori, è stato un piacere, saluti. Passo la base piano piano e amore mio, buon anniversario. Buon sesto anniversario. Ciao Nicole piccolina, che quando magari un domani ascolterai questo episodio sarai grande. Noi e quindi ci sei mancata tanto, sappilo amore mio, però ogni tanto ci vogliono anche questi momenti. Cin cin. C'è anche il video sul portatile. Un saluto a tutti gli amici e colleghi ai quali vogliamo molto bene. Io sono briao davvero. Anch'io. E quindi... se siamo dimenticati di salutare qualcuno, risalutiamo Giusy e Christophe. Mi raccomando, perché siamo come le fragole, condividete. Non vi chiedo di donare, fate quello che potete, però perlomeno la condivisione. Sì. Dateci una mano a costruire questo pozzo d'acqua. Merci. E beh, grazie a tutti. Passiamo all'ultima canzone che ve l'avevo annunciata prima e ve la riannuncerò adesso. È Dreams Come True. E anche con Impossible Not to Do. Anche na na na na na na. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Un cuore matton. No, matton. Dai, no, ti ci prego, stava. Cioè. Dreams Come True degli Spatial Unity, come quella scena per Ubuntu. Oddio mio, di cui sopra. Bruttissimo. Io non voglio pensare ai paragoni che mi aspettano quando avremo chiuso i microfoni. Comunque andiamo avanti. Da Giamendo e buon ascolto. Ci sentiamo presto col Pizzacast 34. www.pizzacast.it, casapizza@gmail.com, Pizzacast la fanpage su Facebook, Casa Pizza su Twitter. GPU ci piace tanto, quindi volevamo parlare anche di GPU, ma non c'è tempo. GPU ci piace. Beatrice Nolli, Marco. Abbandonate Pizza. Facebook adesso. GPU. Binnolli, l'altro Twitter, e poi manca Skype, ma tanto signori è sempre spento. Quindi okay. Saluti e baci, è stato un piacere. Buon proseguimento, ragazzi. Arrivedergliela. Auguri, amore. Auguri. You never know where love will grow. Another tell. Tomorrow's child is reconciled by the love that's in your heart. Of wings will always bring a never ending dream that floats away. Please let me stay. Hear the words that I say. Now you know it's not that far away. I hope your dreams come true. Yes, I do. Oh, yes, I do. I hope your dreams come true. Deep down in my soul. closer, much closer again.